Just another day. Oh, oh. That my Lord, oh, oh. Aspetta. E mentre il sole si alza, il mio amore rimbalza tra stimoli di luce, nuovo giorno che incalza. Troppe domande hanno un punto la notte, la mia faccia da sveglio che se ne fotte. Pronto ad un giorno come tutti gli altri, un giorno di questi vorresti svegliarti in un'altra città, magari chissà, New York City, thousand light. E non fidarti del tempo, non può essere spento, tanto ogni momento buono per sentire il fischio del vento, e ciò che sento è sempre in vento. Uccide di ricordi, se il passato è duro a morire, dove vai? Se di te poi non ne sai, dove vai? Se pensi solamente che guai, fuga alla Hawaii, oppure un'altra fuga dai mai. Strade zeppe di bastardi, sogni grandi giuntai, mani strette coperte, segni su porte diverte. Vuoi provare ad entrare nei segreti di un rap? Le mie strette blindano come manette, cerchi pende su polsi consumati dalla mente. Lei che si riflette e balla in cerchio da sola. Musica uomo, suona musica ancora. È così che va ogni singolo giorno, vecchie situazioni che fanno ritorno. Sempre alla ricerca di un nuovo linguaggio, il vecchio ti rimane addosso come un tatuaggio. È così che va ogni singolo giorno, mentre nuovi stimoli ti vengono incontro. Sempre alla ricerca di un nuovo linguaggio, il vecchio ti rimane addosso come un tatuaggio. È così che va ogni singolo giorno, vecchie situazioni che fanno ritorno. Sempre alla ricerca di un nuovo linguaggio, il